sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci sono momenti, purtroppo vi siamo già passati, in cui alcune dinamiche accelerano, la storia sembra accelerare. Mi riferisco chiaramente a tutti i fronti aperti in quella che potremmo chiamare la politica estera, ma in molti casi anche politica economica. Non c'è solo l'Ucraina, non c'è solo la Grecia, di cui parleremo, perché ancora da quello che sta emergendo di là da venire un qualunque ipotesi di accordo, ma e non c'è solo l'ISIS in Siria e in Iraq. A questo punto c'è anche il fronte libico. Per ora chiaramente tutta la gestione di carattere umanitario / di politica estera in senso stretto. Certo che le attività erano già ridotte al minimo in Libia, ma certo che un ripensamento su quelle che potranno essere le conseguenze economiche andrà prima o poi fatto, e vedo molte valutazioni in giro anche su cosa portò, diciamo, soprattutto la Francia a guidare una coalizione o comunque a spingere per una coalizione. Nessuno sta rimpiangendo Gheddafi dal punto di vista dell'uomo politico, però attenzione, si dice da alcune parti in questo paese peggio la toppa del buco, e in questo caso mi sembra di poter dire che è proprio così. Abbiamo un'area geografica in questo momento non sotto controllo, oltre che vicinissima alle nostre coste. Da questo punto di vista, attenzione, non abbiamo ancora elementi per valutare in maniera compiuta tutto l'impatto economico e non mi sembra neanche prioritario. Prioritario invece è quello che sta capitando o non capitando a Bruxelles. C'è il vertice Eurogruppo oggi e si sta cercando di arrivare a una nuova intesa sulla Grecia. Tsipras ha affermato: ci serve tempo, non denaro. Ha sondaggi che, stando appunto a quello che abbiamo visto, registrano un altissimo consenso in Grecia, il 60% dei concittadini. Mario Draghi oggi ha detto che non ha senso speculare su una possibile uscita dell'euro della Grecia, ma il ministro delle finanze tedesco Schäuble si è detto scettico sulla possibilità di trovare un accordo dopo quello che ho sentito sulle discussioni tecniche del weekend. Vedremo oggi se emergerà qualche punto di caduta, punto di possibile accordo e compromesso. Per quello che riguarda la borsa, oggi chiusa l'America, è il President Day. Parigi -0,12, Francoforte -0,37, Londra -0,20, Milano invece da questo punto di vista come borsa è in linea con il resto d'Europa, -0,26%. Segnalo che è molto forte il Monte dei Paschi, è +5,90%. C'era sul Sole 24 Ore di ieri un'intervista importante di Alessandro Profumo. Buzioni c'è in +5,15, ce ne parleremo. Faccio notare che sul Monte dei Paschi sono arrivate anche delle indicazioni degli analisti, che hanno detto sostanzialmente: attenzione, il titolo è così a buon mercato, è tanto a buon mercato da non poter essere ignorato, e molti hanno spinto l'analisi a outperform, cioè da considerarsi come titolo da acquistare. Buzzi Unicem +5%, Telecom Italia +2,5%, CNH pure, Prismian +1,80%, Mediobanca +1,80%, Gtech +1,30%, Tenaris +1,20%. Fronte opposto invece, Mediaset perde il 3%, Atlantia +1,70%, Campari +1,60%, Pop Emilia Romagna -1,5%, Generali -1,20%, come Intesa e Mediolanum. Tods perde l'1,1% come Enel. Eni visto che parlavamo di Libia, meno 1% in questo momento. Euro a quota 1,14, il petrolio oggi per quello che riguarda Wall Street è a $56,2 al barile, quindi è ampiamente sopra $50. E per quello che riguarda il petrolio, in questo caso l'ENI e la situazione libica, quindi teniamo assieme i tre temi di apertura. Oggi un portavoce dell'ENI in merito proprio alla situazione della Libia ha detto che la presenza di espatriati, che vuol dire italiani che lavorano per l'ENI in Libia, è ridotta e limitata ad alcuni siti operativi offshore, quindi in mare aperto, garantendo in collaborazione con le risorse locali lo svolgimento regolare delle attività produttive nell'ambito dei massimi standard di sicurezza. Monitoriamo con estrema attenzione l'evolversi della situazione. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la buona notizia oggi riguarda il Giappone, che da sempre viene usato come paese riferimento per la famosa stagnazione economica in assenza di inflazione. Beh, è uscito dalla recessione tecnica grazie a un PIL tornato a crescere dello 0,6% tra ottobre e dicembre e del 2,2% su base annua. Sembrerebbe che a questo punto le tre frecce della Abe Economics, del nome del premier Shinzo Abe, molto, cioè, tutto l'opposto di quello che vuole la Germania sull'Europa, ma è molto più simile a quello che ha fatto gli Stati Uniti hanno fatto per la loro economia, e quindi grandi iniezioni di liquidità nell'economia, incentivi fiscali e un pacchetto di riforme strutturali ancora un po' bloccato. Comunque sembrerebbe, visto il dato del 2,2% di crescita sull'anno prima, che l'Abe Economics stia funzionando. Anche qui la prudenza è d'obbligo, perché poi non basta un trimestre a fare primavera. Comunque un più 2,2% su base annualizzata non è poco. Veniamo all'Europa. C'è una buona notizia per l'area euro e riguarda la bilancia commerciale, cioè la differenza tra quanto l'intera area ha esportato nel 2014 e quanto ha importato. È in attivo un attivo record di 194,8 miliardi di dollari. Nel 2013 il saldo attivo era di 152 miliardi, e questo nonostante nei primi 11 mesi del 2014 si sia avuto un vero e proprio crollo dell'export verso la Russia, meno 11%, da 134 a 120 miliardi. Sono più di 14 miliardi persi di export verso la Russia, di cui un miliardo e due, ahimè, di pertinenza italiana. Dell'Eurogruppo parleremo. Faccio notare che le fonti europee non sono molto speranzose su un possibile accordo oggi, che il ministro irlandese delle finanze Michael Noonan, poi lo sentiremo, ha detto: attenzione, non ci aspettiamo grossi passi in avanti oggi, non è accaduto nulla di tangibile nel weekend, aspettiamo ancora che la Grecia ci spieghi meglio che cosa vuole da noi. Casomai, se non c'è accordo, faremo un nuovo vertice, un nuovo Eurogruppo venerdì. Il commissario degli affari economico monetari Pierre Moscovici ha detto: lavoriamo a una soluzione positiva, un programma esiste, partiamo da quello, non lavoriamo alla Grexit, come si chiama in gergo, cioè l'uscita exit della Grecia dall'euro. E poi Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, io così dico proprio come tattica politica, nelle trattative forse meno parlano i tedeschi e soprattutto Schäuble, meglio è, per non irrigidire le posizioni. E invece Schäuble parla e dice: mi dispiace per i greci, hanno eletto un governo che si sta comportando in modo piuttosto irresponsabile al momento. La Grecia deve capire che non si può vivere al di sopra dei propri mezzi e continuare a fare proposte su come gli altri dovrebbero pagare ancora di più. Allora, uno poi può essere più o meno d'accordo sul fatto se le proposte avanzate da Tsipras e Varoufakis abbiano un senso, siano solo demagogia, questo possiamo discuterne. Faccio però notare che io non ricordo ministri delle finanze di paesi dell'area euro avere giudizi così sprezzanti sul voto elettorale, perché uno potrebbe, allora io non ricordo un ministro Padoan o un ministro delle finanze francese o spagnolo dire: mi dispiace per i tedeschi che si sono eletti un governo che sta portando l'Europa e ha portato l'Europa in un cul-de-sac e in un vicolo cieco con un impoverimento complessivo, sbagliando, anche se non lo ammetteranno mai perché sono tedeschi, tutta la scelta strategica. Il Giappone esce dalla recessione, l'America esce dalla recessione e qua noi siamo ancora con lo 0,6, l'1,1, se la Germania si accontenta dell'1,1, 1,4 contenta lei. Ecco, sarebbe stato molto inopportuno per un ministro delle finanze e dell'economia dire ai tedeschi: mi dispiace per il governo che vi siete eletti. Vorremmo dai tedeschi lo stesso rispetto anche per gli altri paesi, no? Cioè loro si sono eletti il governo che hanno voluto. Poi uno può criticare il governo e le proposte di Tsipras e Varoufakis, ci mancherebbe, ma dire mi dispiace per i greci, hanno letto, è di nuovo qualcuno che sale sulla cattedra che nessuno gli ha attribuito come cattedra. Sei il paese più forte dal punto di vista economico, ma eri il più debole nel 2003, e dà lezioncine, con il rischio poi concreto che questo irriti ulteriormente l'opinione pubblica greca e rafforzi dal punto di vista dell'elettorato interno ancora di più Varoufakis e Tsipras, no? Per cui è un grosso regalo. E infatti è arrivata dopo pochi minuti una nota del governo greco, del portavoce, dicendo: potrei dire che anche la Germania è irresponsabile. Chi è responsabile? Continua il portavoce del governo greco. Su chi è irresponsabile e chi è responsabile vale una valutazione soggettiva. Non voglio scendere al livello degli insulti. Tanto il vizio di sentirsi in cattedra i tedeschi non lo vogliono perdere, e ripeto, nel 2003 erano loro il malato d'Europa e per primi ottennero, o meglio sforarono, il tetto del deficit, che ne pensi adesso la geografia teutonica. Eppure bisogna stare attenti, la ruota gira, uno non resta sempre davanti alla lavagna, per cui boh. Per quello che riguarda i tassisti, ma non torno sul tema dei tassisti, faccio notare che c'è stato un blocco nuovo dei tassisti a Genova per protestare contro Uber via Roma e piazza Corvetto. Ancora, per quello che riguarda invece le notizie che riguardano l'Italia, il numero uno, il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, ha detto che al prossimo consiglio di amministrazione proporranno di aumentare il plafond del credito all'export di una somma rilevante, intorno ai 10 miliardi, anche perché da questa settimana è operativa la norma che consente di fare credito all'export anche alle imprese che non hanno la garanzia della SACE ma di altre agenzie. Sempre sul fronte del mondo del credito, oggi è intervenuto Gianfranco Torriero per quello che riguarda l'ABI, e l'ABI sostiene che di essere a favore dell'ingresso di nuovi attori nel mercato del credito se questi nuovi soggetti saranno sottoposti alle medesime regole e obblighi di vigilanza delle banche per non creare distorsioni concorrenziali. Poi sottolinea l'ABI: non c'è ancora una svolta sul fronte dei crediti, ma di segnali positivi sì. poi la riforma delle banche popolari, oggi oggetto dell'intervento del direttore generale di Confindustria Marcello Panucci alla Camera. Ha detto la Panucci: la riforma delle banche popolari va nella giusta direzione perché punta al rafforzamento patrimoniale del sistema e anche a un nuovo processo di concentrazione. Aggiunge però il direttore generale di Confindustria: è fondamentale che da ciò derivino recuperi di efficienza e redditività che si traducono in maggiore disponibilità di credito e migliori condizioni e non, come è accaduto in passato, un allontanamento dei centri decisionali dai territori con la conseguente riduzione del credito. E prima di arrivare adesso al tema annoso, ma tanto continua così sto paese, dei vitalizi, i vitalizi infiniti, la pensione e anche, vale per la Sicilia come vale per la Lombardia oggi, vorrei dare una buona notizia che riguarda il gruppo Ferrovie dello Stato, perché l'azienda preferita come luogo di lavoro per i neolaureati italiani sono proprio le Ferrovie dello Stato italiane. Eni ha perso la pole position dopo 4 anni in cui era il numero 1, Google guadagna 2 posizioni e va al terzo posto, Eni scende al secondo appunto. Questo è il risultato del rapporto Best Employer of Choice 2015. Alla quarto posto abbiamo BNL BNP Paribas, che è la prima banca comunque nella classifica, segue poi Mondadori al quinto posto, Apple al sesto, Ferrero perde molte posizioni passando dal secondo posto al settimo quest'anno, all'ottava posizione Enel, Ferrari è nona, Sky decima. E ricordo che la classifica è il frutto dell'osservatorio sui giovani italiani e viene realizzata annualmente su un campione di 2500 neolaureati in cerca di lavoro. È la 13ª edizione, quindi complimenti alle Ferrovie dello Stato che hanno agganciato il primo posto. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo un ascoltatore che mi scrive: sono rientrato ieri da Berlino, se in 4 giorni ho avuto 4 scontrini e tanto. Peter da Trento, ho le prove. Guardi, non è che adesso vogliamo paragonare, va benissimo il tema degli scontrini, un punto è un altro, è l'opportunità politica di parlare o stare zitti, in questo caso per Schäuble. Se poi Schäuble parla al suo elettorato è un altro, allora ha ragione anche Varoufakis e Tsipras a parlare hanno ragione anche i due a parlare al loro elettorato. Cioè, voglio dire, su questi temi più la Germania sta zitta meno dà l'impressione che questa troica si muova solo su ordini tedeschi e che abbia una funzione punitiva, rievocando, siamo arrivati a rievocare, grazie a questo atteggiamento da elefante tedesco in una cristalleria, a rievocare il mancato pagamento dei debiti di guerra della Germania alla Grecia e agli altri paesi nel 1953. Non so, vogliamo continuare così? Questo è il portato di quando tu continui a umiliare un paese senza capire che se vuoi che ti paghi i debiti che ha contratto, forse è meglio tenerlo in vita e non, diciamo, spingerlo fuori dall'euro mandarlo in nuovo fallimento. Non so, mi sembra una cosa così banale, però. Va bene, va bene. Occupiamoci della Grecia a casa nostra, se mi passate la battuta, e quindi l'Assemblea regionale siciliana, ma anche il Pirellone a Milano. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag in più. Allora, partiamo dall'Assemblea regionale siciliana, perché voi sapete che questa radio, questo programma mantengono l'attenzione alta sul tema dei vitalizi. Abbiamo sempre detto che da un punto di vista nostro il vitalizio per chi fa il consigliere regionale ti danno lo stipendio, rimborso spese, ma la pensione no, la pensione è un lavoro, ce l'hai dopo un lavoro vero e proprio, è una trattenuta sul tuo stipendio, è il posticipo di uno stipendio futuro, ma è una cosa diversa. Comunque, anche perché uno che lavora può essere licenziato, nel pubblico impiego meno, ma può essere licenziato nel privato o perde il lavoro perché chiude la fabbrica, chiude la società, chiude l'ufficio. Quando uno fa il consigliere regionale non può essere licenziato, no? Comunque, allora sentite questa, col massimo rispetto per i defunti, col massimo rispetto per i defunti. Prima parlavamo della Grecia del 53, della Germania, ma qui andiamo al 47. Natale Cacciola, nato in provincia di Messina, prima del terremoto degli anni 30, sì, degli anni 30 mi sembra, o del... adesso vado a memoria sul terremoto. Comunque, si candidò per il Partito Monarchico alle elezioni regionali del 1947. Ha avuto questo mandato per 3 anni, cioè consigliere regionale per 3 anni, in virtù di quei 3 anni passati dal 47 al 50, dal 1947 al 1950, nel Consiglio regionale siciliano, cioè da 40 anni, l'erede percepisce un vitalizio. La figlia Anna Maria, che immagino avrà un lavoro, non lo so, avrà... prende puntualmente 2.000 euro al mese. Ora, non è questa, non è l'ammontare della cifra, ma perché per 40 anni, per uno che ha fatto il consigliere regionale per 3 anni, è tutto legale, è tutto legale. È il regolamento del Parlamento regionale siciliano che stabilisce che i soldi spettino di diritto agli eredi dell'onorevole caro estinto. Non importa quanto hai fatto il consigliere. Può averlo fatto per 3 anni, poi si chiamano deputati perché la Sicilia è una regione autonoma e quindi ha un vero e proprio Parlamento, oppure puoi averlo fatto per 6 mesi con il riscatto, tutto questo se sei stato eletto prima del 2000. Il contributo alla morte passa al coniuge superstite, in alternativa al figlio inabile al lavoro e alla figlia nubile in stato di bisogno. Ora, è chiaro che poi su questo si aprono varchi, noi non abbiamo dubbi, però Sergio Alessi è il figlio del primo presidente della regione siciliana, scomparso nel 2008. Percepisce 5.900 euro lordi al mese di vitalizio, ha più di 60 anni, ma è senza reddito e viveva a carico del padre. Allora, va bene, ci possono essere situazioni di difficoltà familiare. Il problema è che non valgono per il resto del paese, cioè se tu non hai reddito e vivi a carico di tuo padre, che è un cassa integrato, e poi ditemi che è populismo questo, Cristoforo Colombo, allora non percepisci nulla. Allora non si capisce perché, se tu sei figlio del presidente, del primo presidente della regione Sicilia, con tutta la comprensione che vogliamo, perché tu a 60 anni c'hai ancora il vitalizio del padre e il figlio magari a casa pure lui perché è disoccupato pure lui di qualcuno che ha perso il lavoro o è defunto, non percepisca nulla. Questo è incredibile. Allora vi faccio altri esempi. Il marsalese Ignazio Adamo fu uno dei pionieri dell'assemblea, fu eletto per il blocco del popolo e fu deputato fino al 1955, morì 42 anni fa e l'amministrazione versa un contributo alla famiglia, sono 4.000 euro al mese e che vanno alla moglie, e una cifra analoga che va alla figlia Anna Rosa. Tutto legale, però è opportuno? Ci sono 117 assegni di reversibilità versati ai congiunti di membri di consiglieri regionali scomparsi che già godevano di una pensione. Per le sole reversibilità, cioè l'assegno ai parenti, l'assemblea regionale siciliana spende 6 milioni di euro l'anno, 500.000 di euro al mese. Poco? Sì, sarà anche poco, però con 6 milioni magari qualcosa in più facevi. Tutto regolare. Il problema è che queste norme finiscono per premiare chi con contributi perpetrati per decenni, parenti dei deputati e chiaramente tutti i parenti, anche chi è stato per pochi anni o in consiglio regionale, o addirittura come il caso che vi sto per raccontare, poi vi lascio al Malox, di Franco Bisignano, detto anche l'onorevole fantasma. Vediamo di capirci. Nel 1976, nel collegio di Messina, l'esponente del movimento sociale Franco Bisignano si candida, e fin qua tutto bene, e sfiora il seggio. Arriva secondo, dietro Antonino Fede. Bisignano fa ricorso contestando all'avversario di non avere la residenza in Sicilia, il che è causa di ineleggibilità. La battaglia si conclude nel 96, dal 76 al 96, l'ultimo dei tribunali a cui lui si rivolge si pronuncia a suo favore e quindi conquista la poltrona virtualmente. Intanto la legislatura del 76 era finita da 15 anni, non è che poi ritornare è cambiato il mondo, no? Però nel 96 arriva la liquidazione e persino il vitalizio, per cui gli viene riconosciuto che nel 76 avrebbe avuto titolo per far parte del consiglio regionale. Gli viene data la liquidazione e poi il vitalizio, un assegno mensile di 3 milioni di lire, poi diventati 1.800 euro. Preso in anticipo rispetto all'età pensionabile in virtù di una inabilità al lavoro, questa poi è pazzesco, vabbè, che gli viene prontamente riconosciuta. Alla sua morte la coniuge Franca Rosa Baglione ha fatto legittimamente un passo, tutto legittimo, un passo avanti, ha inviato agli uffici di Palazzo Normanni le richieste di avere il contributo di reversibilità, ossia 1.000 euro al mese. La cosa bella è che nel frattempo la regione Sicilia dal 76 in poi ha pagato anche l'onorevole Antonino Fede, quello eletto senza la residenza, che non sarebbe mai dovuto andare sui banchi del consiglio regionale. Ma la cosa pazzesca è che tu praticamente non hai mai fatto parte di quel consiglio, hai fatto un ricorso che hai vinto dopo 20 anni, dicendo che non poteva essere eletto chi ti ha battuto, diciamo, al seggio, e siccome uno può dire sì, ok, no, becchi pure la liquidazione e la reversibilità per un lavoro che non hai mai lavoro, per una funzione che non hai mai svolto. Io non lo voglio chiamare lavoro, abbiate pazienza, è qualcosa di più alto fare politica, fare consigliere regionale, è una vocazione che va giustamente pagata per la gestione delle spese correnti, ma è una vocazione, non te l'ha ordinato al medico. Va bene, ultima notizia, così chiudiamo con la Lombardia. Il garante dei contribuenti in Regione Lombardia, Donato Giordano, 68 anni, ex assessore ed ex consigliere regionale, ex vice sindaco di Bresso, prima socialista e poi in Forza Italia, ha fatto un ricorso contro la stessa Regione Lombardia, che per il suo incarico gli versa comunque 100.000 euro l'anno, perché la nuova legge gli vieta di poter cumulare lo stipendio con il proprio vitalizio da altri 40.000 euro l'anno. Lui è anche il difensore regionale dal 2005 e riconfermato nel 2011 fino al 2018. La nuova norma sarebbe, secondo il ricorso, destinata solo ai rapporti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge, non applicabile al suo caso. E poi lui non sarebbe assimilabile a una figura istituzionale e quindi la sua remunerazione dovrebbe essere cumulabile al vitalizio. 16 pagine di ricorso, dove trasuda anche una certa indignazione per il diritto soppresso, e conclude chiedendo gli arretrati della quota di vitalizio non versata dallo scorso novembre, rivalutati con gli interessi e la rifusione delle spese processuali. Nel caso vincesse, ovviamente tutto a carico del contribuente. Faccio notare che lui svolge il ruolo di garante dei contribuenti. minuti. Allora adesso arriviamo agli altri temi. Dunque c'è chi dice vabbè, ma il tizio che è difensore dei contribuenti non può fare ricorso. Sì, abbiamo solo fatto notare che il ricorso per i 40.000 euro di vitalizio di chi garantisce i contribuenti faceva un po' ridere, quantomeno dal punto di vista nominalistico. Poi qualcuno mi scrive: ma perché lei lavora per ordine del medico? No, guardi Marco, non faccia finta di non capire, poi non so lei che lavoro faccia. Io lavoro perché, come tutti gli italiani che possono e riescono a trovare un lavoro, devo lavorare per arrivare a fine mese, e questo è il lavoro. Se domani volessi fare il consigliere regionale per qualunque motivo, perché mi piace la politica, è una scelta. Lavorare è un obbligo per chi ce la fa, e abbiamo i record di disoccupazione storica, giovanile e normale. E chi ce la fa è un obbligo mantenere una famiglia, mantenere se stessi. Fare consigliere regionale non è un lavoro, e men che meno per arricchirsi, e men che meno per avere una pensione che si sognano più di metà degli italiani, per non dire i due terzi. Ma che di cosa sta parlando? O meglio, da dove sta parlando? Così capisco anche che lavoro fa lei, Marco. Va bene, andiamo avanti. No, non posso. Sì, si chiama vitalizio, dovrebbe essere finché uno è in vita, scrive uno, va bene. Se non andiamo sul macabro, dai. Se no, poi è la fine. Allora, invece, passiamo al CERVET. Visto che parlavamo della crisi, di chi lavora, vediamo chi vorrebbe lavorare e non riesce più a lavorare. Perché dall'inizio della crisi al 2008, ce lo dice il CERVET oggi, sono fallite in Italia 82.000 imprese. E lì non c'è vitalizio, quando fallisci. Con 1 milione di posti di lavoro persi, pure lì non c'è vitalizio quando fallisci. Poi, per non parlare di tutti gli esodati, quelli che la Fornero ha messo nella terra tra coloro che sono sospesi, no? Nel purgatorio. Ora, quelli lì vitalizio non ce l'avevano, e quelli avevano lavorato e aspettavano la pensione. Ma come fa a scrivermi così, Marco? Ma non si vergogna ogni tanto? Se non capisce la differenza tra lavorare perché devi lavorare, vuoi, e hai bisogno di lavorare, e fare il consigliere regionale perché ti hanno candidato, perché ti piace la politica, perché hai un progetto in testa, ma saranno due cose diverse. O se no, sa che c'è, prendiamo i consiglieri regionali e gli chiediamo per un anno di fare lavori che altri fanno per obbligo, non lo so, l'autotrasportatore, il magazziniere, l'infermiere col turno di notte, l'insegnante in periferia, e vediamo quale dei due è più lavoro, così divento proprio demagogico, ma ogni tanto, Che poi è demagogico, perché no? Potrebbe essere interessante. Allora, dicevo, 82.000 imprese che sono fallite dal 2008 ad adesso, lo registra il dato il CERVED, e nel 2014, mentre partivano i ricorsi, così oggi proprio me l'avete tirato, i ricorsi dei mitici Corbani, Capanna, lotta dura senza paura per il vitalizio, nel 2014 nel paese si registrava il picco di fallimenti delle imprese, che molto spesso sono piccole imprese, 15.000. Le procedure concorsuali non fallimentari e le liquidazioni volontarie sono salite a 104.000. Per fortuna nel 2014 si è registrato un deciso calo delle procedure concorsuali non fallimentari. Allora, Guido Romano è il responsabile dell'ufficio studi del CERVED. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Abbiamo capito che se uno prende la fotografia dal 2008 sono dolori. C'è qualche segnale di miglioramento nel 2014? Ma sì, guardi, noi vediamo sostanzialmente due fenomeni: un fenomeno di fallimenti che di fatto sono la conseguenza del fardello della crisi. Prima di fallire un'azienda passa del tempo, da quando gli effetti della congiuntura negativa si riflettono sui conti a quando porta i libri in tribunale. D'altra parte però vediamo un calo delle liquidazioni volontarie, questo dal nostro punto di vista è un fenomeno importante, perché le liquidazioni volontarie, che sono di fatto chiusure di imprese in bonis, riflettono le aspettative degli imprenditori sui profitti, ed è la prima volta da quando inizia la crisi che questo dato segna un calo, quindi probabilmente il picco della crisi è passato. Questo non significa che i fallimenti non continueranno a manifestarsi anche in modo significativo. Minuti, lei fa del populismo puro, mo 1.000 aziende falliscono perché 10 politici prendono il vitalizio. A parte che non sono 10, ma nessuno ha mai detto che le aziende falliscono perché c'è vitalizio. Abbiamo solo detto che il 2014, dati CERVE dalla mano, visto che abbiamo ospite in collegamento il responsabile ufficio studi che oggi ha diffuso i dati, è stato l'anno peggiore per i fallimenti aziendali. Ed è stato anche l'anno in cui, non c'entra niente le due cose, ma faccio notare l'opportunità, il tempismo, il senso del tempo, lo Zeitgeist, ma che cavolo, la Weltanschauung, come vuole che ne parli, degli ex assessori e consiglieri regionali della regione Lombardia, che proprio nel 2014 hanno fatto l'associazione per il vitalizio degli ex consiglieri, hanno fatto ricorso, lotta dura senza paura, ok? Facevo solo notare il tempismo. Allora, mi dia qualche elemento, non dico di ottimismo, ma almeno di moderata cautela, dottor Romano. Dove si collocano questi fallimenti, visto che lei ha già ricordato che qualche segnale di miglioramento, pur con un dato così brutto, c'è, e dove, in quali settori, quindi aree geografiche e settori? Allora, siamo nella seconda fase della crisi. Nella prima fase avevano sofferto soprattutto le piccole e medie imprese industriali. Oggi invece quelle che soffrono di più sono le piccole e medie imprese rivolte al mercato interno, quindi soprattutto servizi e costruzioni. Questo da un punto di vista settoriale. Da un punto di vista territoriale invece la crisi è, ahimè, abbastanza diffusa. Ci sono ben 11 regioni sulle 20 italiane in cui i fallimenti nel 2014 hanno toccato un record storico dal 2001. Aumentano un po' in tutta Italia. L'unica macro area in cui osserviamo un aumento un po' più moderato è il nord-est, ma un fenomeno che comunque riguarda tutte le regioni italiane e soprattutto quelle dove è maggiore la presenza di piccole e medie imprese rivolte al mercato interno. Si salvano un po' le regioni e le aree in cui c'è presenza di piccole e medie imprese che lavorano con i mercati esteri, che rappresentano la parte più dinamica della domanda. Sì, come stiamo raccontando ormai da tempo, quindi il nord-est un po' meglio, visto il nord-ovest invece con un terzo degli impieghi persi, 59.000, no? Cioè su 314.000 dal 2008-2014, quasi 60.000 si concentrano nel nord-ovest, di cui ben 40.000, scusatemi, in Lombardia, così rispondo di nuovo all'ascoltatore. Nella regione in cui hai avuto 40.000 fallimenti dal 2008 al 2014, 40.000 sono i posti di lavoro persi. I posti di lavoro persi nei fallimenti, abbiamo giustamente il tema dei vitalizi per gli ex consiglieri. Mi dica un'ultima cosa: i settori invece, sempre a livello di numero di posti persi. Sì, di nuovo, hanno sofferto soprattutto costruzioni e servizi da un punto di vista del dato del 2014, sono quelli dove sono aumentati il numero di lavoratori impiegati in imprese fallite. L'industria invece, per fortuna, ha già fatto vedere un'inversione di tendenza. Alcuni infatti hanno avuto inversione di tendenza, tra l'altro in ambito manifatturiero voi avete visto un'emorragia di quasi 9.000 posti di lavoro, giusto? Sì. E nei servizi non finanziari? Prego. Esattamente, sì, sono soprattutto le imprese di dimensione piccola, soprattutto quelle che spesso devono aspettare pagamenti dalle loro controparti, che hanno sofferto questa fase e che hanno di fronte un mercato asfittico. Allora, restiamo sul tema di chi esporta, di chi lavora sul mercato interno invece. Riproduco comunque i dati: 29.000 posti persi nei servizi non finanziari, 27.000 nella distribuzione. E nel ringraziare il responsabile ufficio studi della CER, Guido Romano, passo al prossimo tema, perché oggi si è aperta a Milano, alla Fiera di Milano, alla Fiera di Milano Ropero, il MICAM, che è l'appuntamento di riferimento per tutto il mondo delle calzature, uno dei punti di forza del nostro Made in Italy. Quattro giorni di sfilate moda e business, incontri business to business, 1500 espositori, di cui 630 stranieri, per quella che è la scarpa. Noi sappiamo che la calzatura italiana ha avuto molti cambiamenti in questi anni, trasformazioni, si è spostata molto sulla fascia maggior valore aggiunto, non solo il lusso, a maggior valore aggiunto. Il presidente di MICAM e di Asso Calzaturifici, Cleto Sacripanti, buonasera. Buonasera. Allora, sentiva l'analisi del CERVED sui fallimenti dal 2008, mi dia qualche segnale, se ce li ha, positivo sulla fine 2014 e inizio 2015. Siamo arrivati a questa fiera con forti preoccupazioni, in quanto lo scorso anno siamo scesi per la prima volta sotto le 200 milioni di paglia prodotte e abbiamo perso 133 aziende su 5.000, che è l'intero comparto moda calzature. Però dopo i primi due giorni di fiera siamo positivi, in quanto... Pronto? Ecco, siamo positivi. Sì. Siamo positivi in quanto abbiamo registrato un aumento dei visitatori italiani e questo era un segnale che ci aspettavamo. Finalmente l'Italia, dopo 7 anni di discesa dei consumi, sembra tornata ad acquistare calzature di valore, perché poi l'Italia paradossalmente era l'unico paese che non apprezzava il Made in Italy. E teniamo nei paesi esteri, salvo purtroppo la Russia. Ci aspettiamo, noi tra 25 giorni faremo il secondo round a Mosca con il MICAM di Mosca, praticamente con la nostra fiera, sì. E ci aspettiamo di recuperare con la Russia. Vengono bene invece i mercati dell'Estremo Oriente e Nord America, grazie finalmente a un euro, cambio euro accettabile. Quindi voi avrete vantaggio dell'euro che si è indebolito, e sappiamo che sulla calzatura anche di lusso ha, e non solo, di fascia medio-alta, il suo vantaggio. Non ho capito una cosa però, Sacripanti, perché voi avete perso, come diceva lei, altre 200 aziende nel 2014. Il fatturato è rimasto invariato a 7 miliardi e mezzo, il numero di paia prodotte è sceso sotto i 200 milioni, 5 milioni di paia in meno rispetto al 2013. Gli elementi positivi da dove li derivava sul fronte dei consumi interni? Mi scusi. Nei primi 2 giorni del MICAM abbiamo registrato un aumento dei visitatori italiani. Questo, insomma, quello che ci aspettavamo anche coerentemente con le stime di Confindustria, Centro Studi, quindi ci sembra che ci sia un ritorno degli italiani a acquistare calzature un po' più di valore, quindi probabilmente un po' di selezione in questi 7 anni di crisi, e anche la pulizia degli stock che hanno fatto negli ultimi tempi riportano italiani in fiera, perché il mercato italiano potrà aiutarci tantissimo nel tornare sopra 200 milioni di paia, perché il 20% della produzione nostra comunque resta in Italia. Resta in Italia, l'80% va all'estero, anche perché da questo punto di vista avete già fatto dei buoni numeri anche l'anno scorso, perché l'export a livelli record più 3% a 8 miliardi e 3 non è che si possa chiedere molto di più, e quindi quello che manca è proprio il fronte italiano, fermo restando che anche in questo settore, visto che rigiriamo tutti, l'80% della produzione ormai va all'estero. Grazie a Cleto Sacripanti, presidente di MICAM e di Asso Calzaturifici, in bocca al lupo a tutto il settore e agli occupati in primo luogo del settore, che sono 76.000 gli addetti diretti delle aziende calzaturiere. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo della borsa, che oggi con Wall Street chiusa per il Presidential Day ha sostanzialmente perso lo 0,18% a Milano, lo 0,16% a Parigi, lo 0,40% a Francoforte, lo 0,20% a Londra. Euro a quota 1,1380 in questo momento sul dollaro. Tra i titoli in evidenza in positivo Monte dei Paschi più 5,90, ma anche Buzzi Unicem più 5,20, Telecom più 2,50 come CNH Industrial, Prismian più 1,80 come Mediobanca, G-Tech più 1,20 come Tenaris ed Enel Green Power. Invece in negativo Mediaset meno 2,80, Atlantia meno 1,70, Mediolanum meno 1,30 come la Pop Emilia Romagna, Campari meno 1,20, Generali meno 1 come Enel e Ferragamo ed Eni. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il dottor Salvatore Gazziano, responsabile strategia di investimento di Soldi Expert SCF. Ogni tanto sapete che abbiamo operatori dei mercati dei capitali nostri ospiti. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Allora, medie siete da un lato, ma soprattutto Monte dei Paschi più 5,88. Ho ben visto, sono uscite delle raccomandazioni a sovrappesare il titolo perché a questi livelli di prezzo inizia a essere interessante, ho capito bene? Ma più che altro, diciamo, il titolo è stato riscoperto anche grazie alle indiscrezioni che sono uscite un po' nel fine settimana, che parlano di un altro possibile acquirente. In questi anni ogni tanto si sono succeduti ipotesi e rumors di questo tipo. Questa volta si parla di un gruppo assicurativo cinese che sono uscite delle indiscrezioni nel fine settimana che dicono che potrebbe essere interessato a entrare in alcune banche in Italia, fra cui proprio anche il gruppo Monte dei Paschi di Siena. E questa notizia, diciamo, è stata vista magari anche per persone, che operatori che avevano operato allo scoperto a ribasso nelle scorse settimane, come un'occasione per far risalire il titolo, che diciamo aveva già beneficiato anche sul finire della settimana precedente dall'ammissione che di fatto lo Stato diventerà a breve uno dei più importanti azionisti della banca. Sì, anche se poi nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore da Alessandro Profumo questo veniva un po' stemperato come giudizio. Mediaset invece, ancora l'effetto della cessione della quota si sta allineando a quei livelli di prezzo, anche se quotava il titolo oggi a 3,87 euro. Sì, diciamo, il titolo ne ha risentito ancora. Perché era 4,1? Era 4,1, sì. Che dal mercato sicuramente non è molto piaciuta in questo caso il fatto che uno dei più importanti azionisti continui come la Fininvest di Berlusconi a cedere pacchetti molto rotondi, ha incassato quasi 380 milioni di euro da questa vendita, e quindi c'è il timore che al di là del Daikon thailandese che potrebbe rilevare quota del Milan, ancora nel futuro, non guardando più di tanto i prezzi, possa continuare a fare, come dicono nel settore, overhang sul titolo, cioè essere paradossalmente il più grande venditore del titolo, perché se insomma sei uno dei più importanti azionisti, vende le azioni, evidentemente non è che si aspetta che la società, questo ragionamento, nel breve avrà grandissime risalite o il business è così forte da cui pensa di vendere. Tra l'altro, la volta precedente che la Fininvest aveva venduto le azioni Mediaset, si parlava del 2006, allora le azioni erano circa 9-10 euro. Questo dà l'idea del fatto dei prezzi, come si modificano in borsa. Certo. Oggi le ha vendute a poco più di 4. Allora, su Monte dei Paschi vedo molti messaggi. Attenzione, nell'intervista al Sole 24 Ore di Alessandro Profumo ha anche detto che l'aggregazione, quindi la fusione con un altro gruppo bancario, è certamente nelle prospettive del Monte dei Paschi. E quindi, perché ha fatto un ragionamento, il capitale che chiediamo agli azionisti, 2 miliardi e mezzo, 3, andrà remunerato, c'è bisogno di una redditività e quindi si può ottenere questo solo con sinergie e un'aggregazione. Poi a quel punto è partita così il toto possibile partner, UBI Banca, Banco Popolare, e poi sempre su Sole 24 Ore ricordo che si parlava anche dell'interesse a cui lei faceva riferimento del gruppo assicurativo statale cinese Hanwha Asset Management. Comunque questo per completezza. Eni, qui pesa più il petrolio o la Libia su Eni, meno 0,95? No, qui sul settore petrolifero in realtà nel caso di Eni è stato sicuramente il caso Libia a dominare più la scena, perché ricordiamo che nel mercato del petrolio, delle stazioni petrolifere, la Libia ha sempre storicamente contato moltissimo nel bilancio di Eni, è arrivato a essere Eni di fatto il 50% della produzione libica veniva di fatto sotto il controllo di Eni. Già negli ultimi anni abbiamo visto un crollo della produzione, dell'estrazione di barili, che è passato da 1,5 milioni di barili all'anno a 250-300 mila barili. E oggi con quello che sta succedendo, adesso c'è stata anche alcune raffinerie esplose, per Eni è gli analisti vedono e prevedono un abbassamento ulteriore dell'utile per azione se questa situazione dovesse verificarsi. Purtroppo gli analisti sono cinici e guardano anche questi aspetti economici, e quindi da questo punto di vista il titolo Eni è stato abbastanza oggi commentato, e facendo tutti i calcoli di questo tipo proprio sul fatto che potrebbe averne un danno, delle conseguenze ulteriori, un danno abbastanza negativo. Saipem invece si è mossa per un certo periodo di tempo in maniera diversa soprattutto da Eni. Ho dimenticato di dire agli altri titoli, forse, no, non mi sembrava, Saipem l'avevamo detta, più 0,90%. Qui sono ancora i conti 2014 oggi diffusi, ma anche le prospettive sul 2015? Sì, oggi Saipem alla fine ha chiuso leggermente in positivo, il titolo quasi dell'1%, e le notizie appunto sono arrivate dalla trimestrale che un po' ha fatto il punto su fine anno, dove la cosa migliore che è venuta fuori è una forte discesa dei debiti, sicuramente significativa, e anche previsioni sul 2015 abbastanza positive, con una redditività significative, soprattutto anche con un numero di ordini di nuove commesse che rispetto allo scorso anno sono salite addirittura da 10 a 17 miliardi, quasi 18 miliardi di euro. Però la società anche quest'anno non distribuirà dividendi, ed erano, ricordiamo che Saipem per anni entrava nei portafogli di molti risparmiatori proprio perché veniva considerata una società sicura quando valeva 30 euro per azione, che era una società che dava un bel dividendo, era una società che cresceva molto. Anche qua un ulteriore esempio sul fatto che spesso in questo settore, come sa benissimo, si parla a volte per principi molto semplici, le comprate, le azioni che danno dividendi, in realtà il mondo può cambiare molto velocemente anche in società che sembrano dominare, business che sembrano solidissimi, come poteva sembrare fino a qualche anno fa quello di Saipem. Oh, vedo un messaggio di un ascoltatore che dice: io vedrei bene una fusione tra Monte dei Paschi e Banca Popolare dell'Etruria del Lazio. Sì, vabbè, dai, abbiamo capito la battuta. Diciamo che se vuole che continui con la battuta, ed è una battuta, sarebbe una fusione che metterebbe assieme il vecchio PD con il nuovo PD. Ecco, se vogliamo continuare con le battute. Sto scherzando, chiaramente, ci mancherebbe. Sì, scherzando. E i migliori e peggiori: Worldspace più 16,60, il Venture Group più 8,20, Ceramica Ricchetti più 6,21, Fronte Opposto, Visibilia Editore meno 4,90, Fiera Milano meno 4,70, TAS meno 4,20, Sintesi meno 4,11. Grazie a Salvatore Gazziano, responsabile strategia di investimento per Soldi Expert. Poi da un lato la famiglia Ligresti, torniamo a parlare dei Ligresti. Li hanno beccati che trasferivano 16 milioni e 700 mila euro mentre erano sotto indagine tra il 24 e il 30 gennaio 2014. E poi cerchiamo di fare un punto del tutto interlocutorio con quello che sta capitando in Europa. Alle volte ritorno, io non voglio tornare a raccontare, l'abbiamo fatto per intere puntate, la vicenda fondiaria SAI, alla luce anche delle inchieste della magistratura, ma come si spolpa, diciamo, si distrugge valore per essere più corretti in un gruppo del genere. Ma i Ligresti li abbiamo raccontati in tanti modi, erano un centro di potere, la magistratura sta mettendo in luce molte cose. Faccio solo notare che questa volta, oltre alla famiglia Ligresti, c'è anche una fiduciaria loro di Milano. Perché lo dico? Perché secondo quanto appurato, ma adesso ci colleghiamo con Torino, mentre erano indagati, mentre proseguivano le indagini nei loro confronti, i Ligresti, intesi come Gioacchino Paolo, Giulia Maria e Ionella Ligresti, davano ordini tra il 24 gennaio e il 30 gennaio 2014 per trasferire in Svizzera 16 milioni e 700 mila euro di titoli tra denaro e titoli veri e propri. Le ha scoperte questa operazione la Guardia di Finanza e le ha segnalate al Ministero dell'Economia della Banca d'Italia. Filomena Greco del Sole 24 Ore in collegamento da Torino, buonasera. Sì, buonasera a te. Sì, la vicenda in sostanza è proprio questa. Nel pieno quindi dell'indagine a carico della famiglia Ligresti, come ricordavi tu, nel gennaio 2014, indagini che, vorrei ricordare, avevano un doppio fronte, uno presso la Procura di Torino, un altro presso la Procura di Milano, indagini che poi sono sfociate in processi che si stanno di fatto svolgendo in questi mesi, soprattutto a Torino, iniziato a novembre. I fratelli Ligresti appunto avrebbero tentato di trasferire in Svizzera, quindi di mettere tra virgolette al sicuro denaro e titoli per un valore complessivo, la cifra che citavi è corretta, 16,7 milioni attraverso proprio il ruolo di una fiduciaria. Ma si sa chi è, scusami Filomena, ma chi è questa fiduciaria? Perché tra l'altro la Guardia di Finanza fa notare come questo fiduciario avesse l'obbligo di comunicare le transazioni, e se ho ben capito è indagato anche il direttore, è segnalato, scusami. Sì, esatto, la fiduciaria dovrebbe essere, io ci sto lavorando, quindi prendiamola con il beneficio del dubbio, devo fare ancora delle verifiche, ma dovrebbe essere la compagnia fiduciaria nazionale, perché è la stessa compagnia fiduciaria nazionale? È la stessa compagnia che è stata sostanzialmente al centro di un precedente controllo da parte della Guardia di Finanza di Torino, quello che aveva di fatto permesso di intercettare un trasferimento, in quel caso però avvenuto, di 2,5 milioni da parte di Paolo Gioacchino Ligresti. In quel caso il trasferimento di fondi sempre a gennaio 2014 era di fatto avvenuto, e poi questi fondi erano stati, diciamo, messi sotto sequestro tutelativo da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi è molto probabile, ma questa cosa la verificheremo e domani la troveremo, insomma, in maniera più accertata sul quotidiano, dovrebbe essere la stessa compagnia fiduciaria. Il punto è questo, che la Guardia di Finanza ha effettuato questi controlli nell'ambito della legislazione, insomma, antiriciclaggio, che prevede appunto l'obbligo, tanto per le fiduciarie quanto per gli istituti di credito, quanto per alcuni professionisti, di comunicare determinate operazioni che risultassero in qualche maniera sospette. Secondo la Guardia di Finanza, naturalmente, essendo gennaio 2014 un'epoca in cui le indagini a carico dei Ligresti erano più che appurate, più che, diciamo, commentate sui giornali, insomma, italiani, c'era stato a luglio del 2013 addirittura la carcerazione per i membri della famiglia Ligresti e per i vertici dell'allora Fondiaria SAI. Quindi la Guardia di Finanza ha dedotto, sostanzialmente ha verificato, che questa condotta fosse assolutamente irregolare nell'ambito appunto di quanto previsto dalle attività di, di antiriciclaggio, insomma. Beh, adesso io non faccio di lavoro la fiduciaria di nessuno, però se non è un'operazione sospetta, una famiglia che trasferisce o vuole trasferire quasi 17 milioni di euro nel periodo in cui è sotto indagine, non lo so, non è il mio lavoro, ma mi chiedo quali siano le operazioni sospette. Chi deve arrivare? Gamba di legno con tutta la banda? Non lo so, chiedo, perché a questo punto non capisco più cosa siano le operazioni sospette. Magari era per acquistare, capito, immobili in Svizzera, non lo so. Ma no, guarda, in questo caso è importante dire, credo che l'abbiamo detto abbastanza chiaramente, ma la chiarezza non è mai abbastanza. È importante dire che in questo caso, sotto la lente della Guardia di Finanza, c'era l'ordine di trasferimento fondi verso conti correnti in Svizzera attraverso tre società del Lussemburgo che fanno capo sostanzialmente tre figli di Ligresti, che hanno una composizione societaria particolare: 60% in capo a ognuno di tre figli, 40% in capo a Salvatore Ligresti. Quindi questa era la volontà, l'ordine emanato. Su questo ordine emanato da parte delle persone in questione non c'è stato il meccanismo appunto di segnalazione che era necessario per legge. Poi però questo trasferimento fondi non è avvenuto, quindi c'è stata una classica operazione di prevenzione, perché poi si era scatenato l'inferno, c'era stata naturalmente anche la verifica dei 2,5 milioni invece che erano stati trasferiti con successo, tra virgolette. Diciamo, ci hanno tentato, ci hanno provato. Tutto si è bloccato. Sì. Grazie Filomena, leggeremo domani su Sole 24 Ore a questo punto la verifica sul nome della fiduciaria, perché ci interessa, perché è giusto sapere anche come si comportano stimati professionisti, che evidentemente delle volte tanto stimati non sono, se si dimenticano, per modo di dire, di comunicare alle autorità di vigilanza transazioni sospette. Grazie alla collega del Sole 24 Ore in collegamento da Torino. Ultimo appuntamento, in realtà è un aggiornamento, devo dire che butta male perché è appena uscito un flash d'agenzia: le trattative in corso tra l'Eurogruppo ed Atene, in corso a Bruxelles. Dico butta male perché è appena uscito un flash dell'agenzia ANSA, dice: secondo fonti del governo greco, le proposte dell'area dell'Eurogruppo ad Atene di rispettare gli impegni dell'attuale piano di salvataggio sono assurde ed inaccettabili. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore per i temi europei, buonasera. Buonasera. Se avanti così, sì, diventi un appuntamento fisso come il traffico e il meteo, perché qua le trattative mi sembra che no, niente di male. Però speriamo di no, perché sennò andiamo tutti a catafascio. Sì, purtroppo è muro contro muro, siamo ancora muro contro muro, nel senso che la Germania accusa i greci, il governo Tsipras, di essere un irresponsabile, in quanto appunto non vuole mettersi seriamente, dice la Germania, al tavolo della trattativa, ma comunque lo dicono anche molti altri paesi. E invece il governo greco, che ritorce dicendo che ha posto certi limiti, certe linee rosse che non intende valicare. Una di queste naturalmente è il rifiuto di chiedere la proroga del programma di assistenza europeo, quello che garantisce i 240 miliardi di aiuto alla Grecia e che scade alla fine dell'anno, e siamo su opposte barricate. C'è in mezzo la Commissione europea che tenta la mediazione, la Francia che dice dobbiamo assolutamente negoziare, ma bisogna prorogare il programma, ma lì secondo me non se ne esce su questo punto. Bisognerà, io penso, trovare, come nel caso della Troica, con un'operazione cosmetica secondo la quale la Troica è sparita ma resta col nome di istituzioni non ben identificate, quindi trovare il modo di fare una proroga chiamandola in un altro nome, con un altro nome. Non vedo come altro si possa uscire da questa situazione. Sì, oggi tra l'altro lo stesso ministro irlandese delle finanze Michael Noonan ha detto se oggi falliamo possibile un nuovo Eurogruppo venerdì. Credo che il modo migliore di guardare alla riunione di oggi sia di considerarla la continuazione delle discussioni tenute nel fine settimana. Il programma per la Grecia termina a fine mese e non conosco ancora quali sono le specifiche richieste greche. Quindi vorrei che il ministro delle finanze greco lavorasse per farci sapere cosa vogliono. Niente di eclatante è successo nel fine settimana e la palla è ora tornata in campo greco, visto che aspettiamo che ci spieghino esattamente cosa vogliono. Credo che una delle alternative sia la negoziazione di un nuovo programma, ma con il programma attuale vicino al termine, il tempo sta finendo velocemente. Ci sono poi da considerare gli obblighi legali della Grecia. La mia opinione è che un'estensione del programma attuale sia il modo più immediato per fare qualche progresso, ma non escludo un'estensione del programma seguita dalla negoziazione di un programma nuovo, magari verso metà estate. Quindi più possibilista. Scusami Adriana, per concludere ho un minuto scarso, ma quando oggi Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, dice mi dispiace per i greci, hanno eletto un governo che si sta comportando in modo piuttosto irresponsabile al momento, la Grecia deve capire che non si può vivere al di sopra dei propri mezzi e continuare a fare proposte su come gli altri dovrebbero pagare di più, e poi ottiene ovviamente la risposta del portavoce del governo greco che dice potrei dire che anche la Germania è irresponsabile, è una valutazione soggettiva. L'obiettivo di Schäuble qual è? Perché è chiaro che in questo momento ricompatti tutta l'opinione pubblica greca a favore di Tsipras, perché dare degli irresponsabili a un voto democratico elettorale, nessuno si è mai permesso di dire che il voto, i tedeschi sono irresponsabili perché si sono votati il governo Merkel e Schäuble, che pure ha prodotto dei bei danni come gestione delle politiche economiche europee. Ecco, qual è l'obiettivo? Credo che l'obiettivo sia quello di, e secondo me si parla in questo modo, di cercare di ricompattare in qualche modo una trattativa, tenendo conto che la Merkel ha appena subito una forte sconfitta ad Amburgo e l'alleanza per la Germania è cresciuta, e quindi si negozia lanciando messaggi alle rispettive opinioni pubbliche. Tsipras con questo atteggiamento durissimo è aumentato molto i suoi consensi e sarebbe al 60% dei consensi, anche se l'80% dei greci continua a dire che vuole stare nell'euro, ma io credo, mi illudo e spero che siano le cannonate che si sparano prima di arrivare a un segmento che verrà comunque secondo me mascherato. Dicevo, il precedente della Troica secondo me è molto sintomatico e sarà quello il modo, la Grecia continuerà nei suoi impegni sulle misure di austerità, ma otterrà un accordo cosmetico che le permetterà di dire che non sarà stato prorogato il programma, anche se sarà stato prorogato perché ci vuole la base giuridica in ogni caso. Allora Adriana, ho capito quale potrebbe essere la via di uscita. Tu stai diventando, come dicevo all'inizio, un appuntamento fisso e ti ringrazio. Malgrado te stessa, è la situazione che ti porta a essere continuamente in collegamento e interlocutorio come la situazione stessa. Grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.